puntata numero 3 di Grandi Condottieri in Missione Svizzera, un programma prodotto da Davide Giorgio per Radio Big World. Puntata numero 3 di... Giorgio, fermati! Questa non è la puntata numero 3, è la puntata extra! E cerca di farla in fretta, perché tra poco è il treno che ti riporta a casa! E meno male, perché la nostra pazienza con te è ormai arrivata al limite! Oh no, la puntata extra anche qui! Sai quante cose non hai detto sulla Svizzera? Almeno diamo al pubblico qualche informazione in più! Questi due non conoscono il giochino della conta. Adesso li frego per benino e faccio leggere loro. Ragazzi, facciamo la conta per vedere chi legge? Io ne conosco una! Dentro a un buco di groviera si è infilata una pantera, prende a morsi la città e chi legge eccolo qua! Tocca a te! Mannaggia, ma com'è che... Eppure l'ho fatta bene! Ehi, non è valida! Oi! Non ci provare, O ti mollo un'altra sberla! Va bene, ho capito l'antifona! Che c'è da leggere? Tratto da... Il buon uso del tè, del caffè e del cioccolato per regolarne l'uso familiare e per valersene per la preservazione e guarigione delle malattie di Francesco Merli, medico degli eserciti e degli ospedali di Sua Maestà il Re delle Due Sicilie. Napoli, Vincenzo Flauto, 1769. Poco dopo la scoperta del Nuovo Mondo, apprese dai suoi viaggiatori l'Europa che gli americani, fra le molte cose che al loro vitto ed al loro gusto servivano, una gelosamente ne custodivano per usarla in loro dolce ristoro ed insiememente per rinfrescarsi. Questa era una pasta ed una secca conserva che ora in forma di cibo or di bevanda prendevano. Essi nel preparar tale bevanda l'agitavano con certo appropriato strumento di legno, dal che ne risulta strepito, ossia gorgoglio. Da tal rumore presero il nome, col quale questa da ogni altra bevanda distinguevano, la dissero cioccolatte o coccolacce, cioè a dire cioco, suono, acce, acqua, suono d'acqua o strepito d'acqua, che è quanto su dell'etimologia del suo nome così di passaggio può dirsi. Questa pasta e questa bevanda, qual era appunto preparata dagli americani di quel tempo, non sarebbe mai stata gradita al palato degli europei, ma gli spagnuoli conquistatori, e particolarmente quei che furono destinati a vivere nell'America, columi che acquistati avevano dagli indiani, togliendo da tal pasta o bevanda alcuni ingredienti e sostituendone altri, la resero a loro, nonché a nazionali stessi, più pregevole perché più facile e più saporita. Quando l'ebbe ridotta ad un gusto universale in America, si persuasero che facile cosa fosse il negoziarla in Europa e particolarmente in Spagna. Non andarono egli non ingannati perché piacque agli spagnoli e ben presto si rese la più comune bevanda. Perché di questa il principale ingrediente difficilmente si conserva dopo 2 anni e perché allora si passava sovente 2 anni appunto nel viaggio dall'India occidentale in Europa, tentarono perciò di ridurre in pasta il primo ingrediente di questa e di custodirlo con cura entro cassette e ben condizionato. Infatti in cotal guisa riuscì di conservarlo più tempo, il che rese più che mai fermo questo commercio e vi è più comune, facile e vantaggioso il consumo. Il cacao adunque è il primo e principale ingrediente di questa composizione, onde prima di parlare d'ogni altro ingrediente, o tolto o sostituito alla cioccolata, gli è dovere il favellar del cacao. Il cacao da tutti è preso per frutto di un albero che cresce in differenti luoghi dell'India occidentali e principalmente a Guatemala, provincia della Nuova Spagna, nell'America settentrionale. Quest'arbore del cacao è quasi simile nella grandezza ai nostri castagni. Gli indiani lo chiamano cacavacue, gli europei cacaotal o cacavifero. Il di lui frutto è il cacao che in numero di 25 o 30 ne chiude la natura in una specie di guscio di grandezza e forma quasi a un dipresso dei nostri meloni e quei del paese si servono di questo frutto nei loro traffici in cambio di moneta. Si è per gran tempo creduto che quest'albero non fosse fruttifero se non era all'ombra di un albero più grande. Gli spagnuoli col piantarlo nell'isola di Cuba, nell'America settentrionale, ove solo allo scoperto e in pochissimo terreno si è veduto crescere con tutta fertilità, si sono su di ciò disingannati. Così pure sappiamo da loro che non già una sola volta l'anno, ma 2 quest'arbore rende il suo frutto, che è spesso più abbondante nell'estate che nell'inverno. Questo non si dispoglia mai delle antiche foglie se non a misura che spuntano le novelle, onde esso è sempre vestito e per conseguenza è sempre bello e fronzuto. Il cacao si raccoglie un poco verde, si estrae dalla sua prima scorza e si espone al sole su strati di giunco, e questo per essersi sperimentato più facile a conservarsi per qualunque tempo e distanza. Vi è il cacao indiano e l'americano. L'indiano viene detto cacao di Catarbre e viene dall'India occidentale, cioè dalla Martinica e dalla Giamaica, due isole dell'America settentrionale. L'americano viene detto di Caracao, ossia Caracco, perché viene da Caracas, ossia San Giovanni de Leon della Nuova Spagna, e questo si reputa per il migliore. Ha il cacao la figura delle nostre mandorle, un poco più lungo, diseguale e rialzato in tondo verso del mezzo. Ha una tenue buccia cui abbrustolato facilmente abbandona, e tanto più resiste al fuoco tal corteccia, tanto è men buona la condizione del cacao, lo che facilmente si osserva nelle specie più picciole come in quella che viene da Portobello vicino al Perù. A tenore delle stagioni accade che in certi anni è così grasso il cacao che appena posto per brustolarlo si discioglie la tenera sua scorza e si divide e suddivide in più minuti frammenti. Il sapore del cacao crudo è quasi come quello che hanno le nostre mandorle dolci ed amare mangiate insieme. Non ha né la dolcezza dell'une né l'amarezza dell'altre, ma bensì un sapore che a quelle unite assomiglia. Gli americani cambiavano già, come ho accennato, questo con le altre cose necessarie alla loro vita, e perché il loro terreno chiudeva in sé tanto oro, in poco conto il tenevano, e supponendo un simil dispregio nelle altre nazioni, trafficavano queste con la merce fra loro più preziosa qual era il cacao, ma cangiarono ben poi consiglio sull'esempio degli spagnoli, i quali seppero introdurre fra loro il lusso e l'ambizione e per conseguenza l'avida fame dell'oro. Tratto da La Svizzera storica e artistica, descritta da Giuseppe La Farina e illustrata da una serie di finissime incisioni in acciaio. Firenze, Luigi Bardi Editore, 1842. Conoscete voi un paese più importante della Svizzera, eccettuata l'Italia? Qual uomo, per poco che gli abbia una scintilla di vita nel suo cuore, potrà senza interesse considerare quel paese eroico, civile, industrioso e poetico? Qual uomo potrà non essere ispirato alla vista di quelle Alpi maestose sopra le quali i ghiacci sono antichi quanto il mondo, di quelle selvagge foreste, di quelle rocche che si incoronano di nuvole, di quei laghi pittoreschi, di quelle sublimi cascate, di quei fiumi che or fremono schiumosi in mezzo a scogli nericci ed or si impadulano in verdeggianti canneti, di quelle ville dai tetti acuminati, di quelle città pulite e industriose, di quei castelli sospesi come i nidi delle aquile sulle alte cime dei monti. La bellezza è varietà ed armonia, e varia ed armonica è la Svizzera. Qui vi deserte lande accanto a vigneti ubertosi, limpidi ruscelli accanto ad aride rocce, popolose città accanto a inospite ghiacciaie. Ad ogni passo quadri inattesi di maestosa grandezza, ad ogni passo nuovi miracoli della multiforme natura. Nel principio della primavera piccioli ammassi di neve si staccano dall'aerea sommità dei monti, rotolano per il lungo dorso di essi, si ingrandiscono per la neve che incontrano, divengono noccioli di masse sterminate e piombano a valle con orribile tonfo, minacciando di totale distruzione e case campestri e villaggi. È questa la valanga, il fulmine della neve. In qualche momento sareste tentato di dire la Svizzera è il paese più infelice del mondo, terreni freddi e umidi che mal rispondono alle cure del coltivatore, fiumi che ora straripando dal loro letto inondano i prati e gli orti, or precipitandosi tra angustissime gole o scorrendo in acuti scogli rendono impossibile la navigazione, valanghe che seppelliscono interi villaggi, città alle quali per mesi interi è celato il giorno dalla nebbia, lunghi tratti di paesi che per metà dell'anno copre uno strato di neve come un lenzuolo funebre o il coperchio marmoreo di un sepolcro. Eppure da quella campagna l'industria fa scaturire la ricchezza, su quella neve son pastori che cantano lieti al suono delle loro cornamuse, in quelle casipole affondate nel ghiaccio sta gente agiata e felice per cui il descro non è mai privo di sane e gustose vivande, in quelle città oscurate dalle nebbie v'è il benessere, la pubblica felicità e le savie istituzioni che han saputo far sorgere villaggi nel seno delle foreste, prosciugare i pestilenziali paduli, a aprire strade che non tarderà a percorrere il vapore e coprire di uomini le inospite vette delle Alpi. La temperatura della Svizzera è svariatissima, mentre un perpetuo inverno imbianca alcuni luoghi, nelle valli del Ticino e del Rodano si gode il tiepido clima dell'Italia. La principale ricchezza del paese è nei pascoli, e l'irrigazione dei prati e il loro ingrasso praticansi in alcuni cantoni meglio che in ogni altra parte d'Europa. La canapa, il lino, le piante oleaginose, la patata e i legumi sono diffusi a grandi piantagioni. In vari cantoni, e specialmente in quello di Vaud, prospera molto la vite. Le vacche pasciute d'erbe succose somministrano in abbondanza un latte squisito, di cui fanno i montanari il primario loro cibo e col quale compongono formaggi rinomati in Europa. Quelli di Gruyère e di Clarisse sono ben noti ai buon gustai. I cavalli e le api sono la ricchezza di parecchi cantoni. Gli svizzeri, come tutti gli abitatori di paesi montuosi, amano molto la caccia, e nelle loro campagne più selvagge non sono rari gli orsi e i lupi, i camosci, le volpi e le marmotte sono numerosi, comuni le lepri. Sulle Alpi vedonsi spesso aquile ed avvoltoi, come nelle pianure sparvieri ed astori. I laghi e i fiumi abbondano di lucci, trote, salmoni, botatrici, ombrine ed altri pesci. L'industria è molto attiva nella Svizzera, dove sono parecchie fabbriche di stoffe di cotone e di seta e di merletti, tele, indiane, nastri, carta, orivoli, tabacco. La confezione del burro e del cacio occupa gran parte degli abitatori delle campagne. La Svizzera esporta tutti questi oggetti e ne ritrae invece dai paesi stranieri pecore, grano, vini, sale, spezierie, droghe, tessuti e articoli di lusso. Varissimi sono i costumi degli svizzeri, i quali però hanno tutti in comune l'industria, la cordialità, l'amore della propria indipendenza. Varissima la lingua, giacché in alcuni luoghi si parlano alcuni dialetti tedeschi, in altri il francese, e dove l'italiano e dove il romanzo. Caratteristica degli svizzeri è la bravura militare. Nella battaglia di Morganten, 300 svizzeri posero in rotta un'armata di 2.000 combattenti. In quella di Sempach, in numero di 1.300, ne batterono 4.000. A Neffel, con 700 soldati, si opposero ad un'invasione di 13.000 nemici. A San Jacopo, 1.500 svizzeri attaccarono un'armata francese forte di 30.000 combattenti. La posero in rotta, vi uccisero 6.000 uomini e, quando furono sopraffatti dal numero, perirono tutti con le armi in mano, eccetto 10 che, ritornando alle proprie case, furono cacciati e notati di viltà e di infamia. La storia elvetica è piena di questi fatti, ed in tempi a noi più vicini si sono visti reggimenti interi di svizzeri, non potendo combattere, voler morire e pagare col sangue il soldo ricevuto dallo straniero. Lo svizzero è, quasi diremmo, soldato per indole. Egli durante la pace lavora la terra e guida i suoi armenti, ma quando batte il tamburo, gitta l'aratro e la zampogna, prende il fucile e corre al suo reggimento. Come con tante memorie gli svizzeri non amerebbero la loro patria? Allontanate l'abitatore d'Elvezia dal suo paese natio, adducetelo nelle vie della caliginosa Londra e dell'imbellettata Parigi. Egli sospirerà sempre per quel monte, per quella valle, per quel lago ove trascorsero i giorni della sua giovinezza, ove egli col suo cappello a larghe falde e col suo fucile sulla spalla andava in cerca di camosci e di cavrioli, ove egli riposavasi suonando la cornamusa con la sommità delle Alpi alle spalle e l'azzurro lago ai suoi piedi. Che importa al figlio d'Elvezia, del popolo di Londra e delle sue immense fabbriche? Che delle mode di Parigi? Che delle belle arti di Roma? Egli altro non chiede che la sua patria, che il Dio ha posto sui monti come il nido dell'astore. I monti sono le barriere che innalza la provvidenza tra popolo e popolo. I monti sono quelli che segregano i mari, sono quelli che avvicinano. La Spagna e l'Inghilterra sulle loro flotte trasportano migliaia d'uomini in un nuovo mondo e non v'è uomo che ne resti maravigliato. Bonaparte attraversa con un esercito poche miglia di monti e l'Europa intera lo guarda piena di spavento. Se la Svizzera, invece di avere una cinta di monti, l'avesse avuta di onde, a quest'ora sarebbe estinta. Abbiate